Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io sarò qui a festeggiare la vittoria del centrodestra e di Ricci e farò una cosa che mai in vita mia mi è capitata: mi ubriacherò. Per la libertà si può fare questo ed altro. Avete capito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, per una volta dovesse vincere lì in Umbria Berlusconi si ubriacherà. Ci ubriachiamo di politica certamente questi giorni, perché sapete che è l'ultima settimana di campagna elettorale, quindi si entra proprio nel vivo, tutti definiscono il rush finale, si dice. Quindi di questo ci occuperemo senz'altro. Dopodiché, a proposito di politica, sapete che la Commissione parlamentare antimafia doveva pubblicare, prima di tutto stilare, una lista di impresentabili alle elezioni. Si parlava di varie regioni, sono 7 in tutto le regioni dove si vota domenica, però pare che in diverse liste ci fossero candidati che per opportunità, per questioni anche giudiziarie eccetera, non dovessero presentarsi. Li chiamano gli impresentabili, ne sono emersi soltanto 4. Poi c'è stato questo rinvio, stasera dovevano essere pubblicate, rese pubbliche, insomma oggi invece c'è stato uno slittamento a venerdì. E di questo parleremo direttamente con un componente della Commissione Antimafia, perché avevo chiesto a Rosy Bindi, che è la Presidente, e al Vicepresidente Claudio Fava, però hanno declinato l'invito. E poi parleremo anche di, non dico una retromarcia, però ieri c'era stata una specie di apertura dell'Osservatore Romano, quindi del giornale del Vaticano, sulle unioni gay, non nel senso siamo favorevoli, però dopo il referendum in Irlanda che ha detto sì ai matrimoni gay, dicevano insomma non dobbiamo lanciare anatemi, bisogna comprendere perché c'è questo fenomeno, non bisogna girare la testa dall'altra parte eccetera. Oggi invece il segretario di Stato del Vaticano Parolin dice le nozze gay sono una sconfitta per l'umanità. Proprio drasticamente, le nozze gay sono una sconfitta per l'umanità. Allora vi chiedo, visto che poi ne parleremo, anche di esprimere il vostro parere su questo argomento, sempre attraverso i canali qui Effetto Notte che conoscete, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi in qualsiasi momento, in qualsiasi istante, e poi ci sono gli sms da inviare al 349-238-6666, 349-238-6666, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, per rispondere a questo input del segretario di Stato Vaticano Parolin, che dice le nozze gay sono una sconfitta dell'umanità. E adesso direi che potremmo iniziare con il resoconto della giornata. Crisi, la ripresa c'è ma va consolidata, così dice il governatore di Banca Italia Visco, che chiede di accelerare con le riforme. Elezioni regionali, mentre la sfida entra nel vivo, slitta la lista degli impresentabili stilata dalla Commissione parlamentare antimafia, ma ci sono 4 nomi. Effetto Grecia, mercati ancora deboli sulla Grecia, ma il ministro delle finanze Varoufakis assicura: pagheremo la rata del Fondo Monetario Internazionale il 5 giugno. Immigrazione, l'Unione Europea verso il via libera sul piano migranti e Frontex stabilirà una base regionale in Sicilia da dove coordinerà l'operazione Triton. Criminalità, è stato in Brasile un camorrista latitante da oltre 30 anni. Stop a Uber Pop, stop quindi in tutta Italia, secondo i giudici è concorrenza sleale, esultano i tassisti. La compagnia commenta: non capiamo, faremo appello. Unioni gay, dopo le prudenti aperture di ieri sul tema dell'Osservatore Romano in seguito al referendum in Irlanda, oggi il segretario della Santa Sede Parolin dice sono una sconfitta per l'umanità. Miracolo a Milano, diciamo, sott'acqua per 42 minuti dopo un tuffo nel naviglio, un ragazzino è stato salvato a San Raffaele con una nuova tecnica. E per il ciclismo, Contador rafforza il dominio al giro dopo l'aprica, Aru in difficoltà. E partiamo quindi dall'assemblea annuale di Banca Italia e soprattutto dalle parole del governatore Visco su ripresa e riforme. L'analisi del governatore di Banca Italia Ignazio Visco riconosce i passi avanti compiuti dal paese, ma esorta a non abbassare la guardia. La ripresa c'è e va sostenuta con le riforme che vanno attuate ed estese ad altri settori, dice allora Visco. L'aumento del PIL nel primo trimestre interrompe una lunga fase ciclica sfavorevole. Proseguirebbe nel trimestre in corso e in quelli successivi. I conti tengono anche grazie alla riforma delle pensioni, dice Visco. Bene poi la riforma del lavoro, anche se un giudizio sul Jobs Act è prematuro. Avanti su scuola, spesa pubblica e innovazione. Le famiglie hanno già speso il 90% del bonus fiscale di 80 euro, aggiunge il governatore, e si è attenuata la quota dei nuclei che arrivano con difficoltà a fine mese. Restano tuttavia limitate le risorse per la lotta alla povertà assoluta, mentre corruzione e criminalità ostacolano lo sviluppo. Mercato del credito e Grecia, infine, una bad bank sarebbe di aiuto, spiega il numero uno di Banca Italia. Lo sviluppo di un mercato secondario dei crediti deteriorati, oggi pressoché inesistente, contribuirebbe a riattivare appieno il finanziamento di famiglie e imprese. Quanto ad Atene, conclude Visco, siamo in presenza di tensioni potenzialmente destabilizzanti. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ci sono dei segnali di ripresa, aspettiamo che si consolidino. Comunque la relazione del governatore mi sembra una fotografia giusta di quella che è la situazione attuale. Il presidente di Confindustria, Squinzi, condivide appieno i contenuti della relazione del governatore di Banca Italia, anche in quel richiamo a portare avanti con forza le riforme. Le imprese, aggiunge Squinzi, sono comunque pronte a fare la loro parte, ma è il mercato che deve ripartire. I sindacati invece sottolineano, nelle parole di Visco, la necessità di intervenire sull'occupazione e il fatto che se la ripresa c'è, è vero che va consolidata, così Camusso, CGIL. Pare che la ripresa ci sia in quota molto leggera, diciamo così. Mi pare che lo stesso governatore abbia definito i rischi di fragilità di questa ripresa determinata prevalentemente da fattori esogeni al nostro paese. Soddisfatto della relazione di Visco è il presidente dell'ABI Patuelli, in particolare per il riconoscimento alle banche italiane degli sforzi compiuti in questi anni di crisi senza aiuti pubblici. Quanto alla crisi greca, Patuelli assicura le nostre banche non sono esposte. Il rischio sulle banche italiane come rischio diretto è molto molto limitato, quasi irrilevante. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Andiamo adesso alla crisi greca, che continua a preoccupare naturalmente l'Europa con gli indici di borsa deboli e incerti. Milano chiuso in leggero rialzo a più 0,18%. Intanto il ministro delle finanze greco Varoufakis lancia rassicurazioni. Pagheremo. Nell'infinita partita a scacchi in corso tra Grecia e creditori internazionali, il ministro delle finanze Varoufakis sposta un'altra pedina provando un difficile scacco matto. Atene pagherà la rata da 312 milioni il prossimo 5 giugno all'FMI, garantisce. Per allora, prevediamo, sarà raggiunto l'accordo con i creditori, annuncia Varoufakis, illustrando due misure che dovrebbero risollevare le disastrate casse elleniche. Una tassa sulle transazioni bancarie, attualmente allo studio, insieme a un'ipotesi di prelievi sui depositi, e una sanatoria sui depositi occulti all'estero, che rientrerebbe dopo aver pagato imposte pari al 15%. L'ultima mossa greca è stata accolta con soddisfazione dal governo tedesco. Ancora un segnale positivo, ha detto una fonte dell'esecutivo, mentre il commissario europeo all'economia Moscovici invitava Atene e i creditori ad accelerare. Per l'eurozona sarebbe un grande problema se un paese dovesse uscire dalla moneta unica, ammetteva Moscovici da Dublino, riconoscendo però che l'ultimo mese ha visto un deciso miglioramento nei negoziati. Giovedì i vice ministri delle finanze dell'eurozona terranno una teleconferenza per fare il punto sulle trattative tra Grecia e creditori. L'ultima novità, che arriva da fonti comunitarie, prevede un'ulteriore ipotesi di salvagente per Atene. La proposta è quella di un unico pagamento all'FMI a giugno anziché le quattro tranche previste, il che significherebbe altri preziosi giorni per chiudere l'intesa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla politica, con le elezioni regionali. Mentre la sfida entra nel vivo, slitta la lista degli impresentabili stilata dalla Commissione parlamentare antimafia. Vi dicevo, ci sono però già quattro nomi di cui parleremo tra poco. Ne parleremo appunto con un componente della Commissione antimafia. E poi, con grande chiarezza invece per quanto riguarda Renzi, ha detto: dico che nel PD, nelle sue liste per le regionali, non c'è alcun impresentabile. Così ha detto il Presidente del Consiglio Matteo Renzi a Canale 21, la TV Campana. Naturalmente, vi dicevo, parleremo di politica. Ci sono state tra l'altro delle cariche della polizia nei confronti di 200 antagonisti che stavano manifestando contro la presenza di Salvini a Genova, una notizia di questa sera. Per l'immigrazione c'è la proposta della Commissione Europea attesa per domani. Renzi ha detto: speriamo, vediamo se l'Unione Europea è solidale. L'ha detto a Ballarò in onda stasera, dice: quello sarà un po' la prova del 9. Per quanto riguarda le notizie dall'estero, orrore al confine tra Malesia e Thailandia. Sono stati scoperti una trentina di luoghi dove i migranti asiatici venivano ammassati e sepolti. I trafficanti di esseri umani avevano organizzato dei veri e propri campi di transito nella foresta, con annesse delle fosse comuni per i migranti in fuga dai propri paesi. Nella giungla tra Malesia e Thailandia è stato scoperto un tremendo sistema per gestire la forte immigrazione che interessa l'Asia. Sono stati ritrovati sepolti dei corpi di uomini appartenenti alla minoranza musulmana dei Rohingya, perseguitata nel Myanmar. Per ora non è ancora stato quantificato il numero di persone che è stato seppellito in questi luoghi. Il problema dei migranti ritorna in primo piano dopo che solo la settimana scorsa un barcone di uomini e donne in fuga era rimasto nel mare di Andamane per giorni prima che alcuni stati del sud-est asiatico decidessero di accoglierli. Enrico Forzinetti, Radio 24, Sole 24 Ore. E adesso parliamo delle unioni gay. Dopo le prudenti aperture di ieri sul tema, su questo tema da parte dell'Osservatore Romano, cioè il giornale della Santa Sede, a seguito del referendum in Irlanda, che sapete nei giorni scorsi ha detto di sì a larga maggioranza ai matrimoni gay, oggi il segretario della Santa Sede Parolin dice: le unioni gay sono una sconfitta per l'umanità. Dice: sono rimasto molto triste di questo risultato, la Chiesa deve tener conto di questa realtà, ma nel senso di rafforzare il suo impegno per l'evangelizzazione, scusate. Proprio ieri invece, da quello che scriveva l'Osservatore Romano, diceva: nessun anatema, piuttosto una sfida da raccogliere per tutta la Chiesa. Citava anche per esempio l'arcivescovo di Dublino Martin, che in un'intervista al quotidiano La Stampa ha parlato di rivoluzione culturale, aggiungendo che la Chiesa deve chiedersi quando è cominciata questa rivoluzione culturale e perché alcuni al suo interno si sono rifiutati di vedere questo cambiamento. Ne parliamo con Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Ciao Roberta. Quindi c'è un'incongruenza tra quello che diceva ieri l'Osservatore Romano, quello che dice alcuni vescovi, allora, quello che dice oggi. Guarda, io ero presente, poco fa è successo questo fatto, ero davanti a Parolin, quindi eravamo un gruppetto di giornalisti anche abbastanza ristretto. E alla domanda, così buttata là, perché ormai la Chiesa sembrava avesse parlato, lui ha detto questa frase sulla sconfitta dell'umanità. Evidentemente non era, probabilmente, questa è una mia impressione, ma questo è quello che poi produce la Chiesa, non era stata ancora maturata evidentemente una posizione ufficiale. Quello, quando ha parlato il Vescovo di Dublino, è sicuramente una voce ufficiale, ma irlandese, invece questo è il governo centrale. La stessa Osservatore Romano non è che ha dato un giudizio generale, ma ha riportato un po' quello che era uscito, cioè quello che erano stati i commenti medi della Chiesa. Questo era evidentemente un giudizio che il Papa, probabilmente insieme a Parolin, ma questo è un probabilmente, perché non è che abbiamo la certezza, ha voluto dare una voce più forte. Il vescovo che citavi, Martin, ha fatto delle bellissime interviste, citavi quella della Stampa, che è quella più, la migliore. Lui ha parlato di rivoluzione culturale e di un, come dire, di un tema appunto molto culturale, molto antropologico. La Chiesa evidentemente non vuole arrivare a un tema culturale, ma rimanere sul religioso, e dice: questa per noi è la famiglia. Quindi evidentemente questa è una posizione che non è né di chiusura né di altro, ma dice la Chiesa, dice: questo è il nostro pensiero, poi ognuno vota quello che vuole. Sì, sembrava appunto che ieri ci fosse questa timida apertura, però intanto sempre Parolin, segretario di Stato Vaticano, sempre in serata, probabilmente quando c'eri anche tu, ha parlato del candidato ambasciatore francese, Stefanini, si chiamerà Stefanini, che fino a poco fa, anche se era il candidato ufficiale di Hollande, qualche giorno fa è stato, dico, respinto, insomma c'era rigidità perché è gay ufficialmente. Adesso Parolin ha detto: in realtà il dialogo è ancora aperto e speriamo che si possa concludere in maniera positiva. Allora, lì la situazione è questa, non c'è una posizione ufficiale, è una situazione molto complessa. Per stringerla molto semplicemente, la Francia, il Consiglio dei Ministri francese aveva designato lui, che è un cattolico, e non è un gay inteso come un portavoce o un... No, vive attivista. La sua vita privata. Cioè, esattamente, è una questione molto privata, non ha un ruolo pubblico, diciamo così, nelle organizzazioni. Questo sarebbe stato, come dire, un po' imbarazzante per la Chiesa, giusto o sbagliato, però queste sono le regole. Invece lui lo vive privatamente. E quindi questo è stato un po', diciamo, il fatto che ha fatto saltare un po' così agli occhi questa vicenda. E lì c'è il problema politico con la Francia, tra Hollande e il Papa, tra questa Francia e questa Santa Sede, che non dialogano su nulla. Quindi evidentemente questa è stata letta forse come una provocazione, ma sta di fatto che questo dialogo, e questo te lo do quasi per certo, vedrà che probabilmente in un lasso non lungo di tempo questo ambasciatore arriverà a Roma. Diciamo, questo periodo è stato usato anche per evidentemente chiarire alcune posizioni. E oggi Parolin lo ha confermato. Insomma, vediamo, è probabile che la Chiesa prima o poi, magari non tutta, ma in buona parte già lo sta facendo, no? Di cogliere il cambiamento, quantomeno, anche se non applaudire il cambiamento. In Irlanda hanno votato i cattolici a favore del sì, non è che hanno votato cattolicissima Irlanda, certo, esatto, certo. Cioè, voglio dire, sono il popolo cattolico irlandese, come quello spagnolo, come quello che evidentemente poi a un certo punto prende le proprie posizioni. La Chiesa, io dico solo questo, la Chiesa quando dice la sua non è che è oltranzista, dice semplicemente quello che pensa, poi il popolo decide quello che vuole. Grazie Carlo Marroni. Grazie, ciao. Ciao Carlo. Per la cronaca, un latitante dal 1984, Pasquale Scotti, esponente della nuova camorra organizzata, è stato arrestato in Brasile. Era 30 anni che era ricercato. E poi questa novità che riguarda Uber Pop: è stato accolto il ricorso presentato dalle associazioni di categoria dei tassisti. Il giudice dispone il blocco in tutta Italia di Uber Pop. Resta attivo invece Uber Black, servizio di noleggio con conducente. Fa concorrenza sleale perché permette di svolgere l'attività di taxi senza avere la licenza, è un incentivo all'abusivismo, a maggior ragione nei mesi dell'Expo, e il tutto è provato dall'applicazione di tariffe più basse che i tassisti, avendo costi fissi, non riescono a sostenere. Per tutte queste ragioni il Tribunale di Milano ha bloccato Uber Pop, la app della multinazionale americana che permette a chiunque di fare l'autista purché soddisfi alcuni requisiti: 21 anni di età, nessuna sospensione della patente per 10 anni, almeno 10 punti sulla patente, un'auto con 4 porte assicurate non più vecchia di 10 anni. Faremo appello per evitare che centinaia di migliaia di cittadini italiani siano privati di una soluzione sicura, affidabile ed economica, dichiara Uber, che avrà 15 giorni di tempo per adeguarsi, altrimenti scatteranno le penali. Plaudono i sindacati di tassisti e radiotaxi che hanno fatto ricorso dopo mesi di scioperi, presidi e proteste. Uber utilizza dei lavoratori a cui non paga né IMSS né INAIL, per cui logicamente riesce a fornire un servizio con dei costi inferiori, e questo è stato riconosciuto dal giudice. Così ci spiega Giovanni Maggiolo di Unica Filt CGL. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo, per chiudere, di una specie di miracolo che è avvenuto a Milano. Un ragazzino di 14 anni è rimasto intrappolato a 2 metri di profondità nel naviglio fuori Milano, si è tuffato, è rimasto sott'acqua per 42 minuti, pensate, e sono riusciti lo stesso a soccorrerlo, ma con molta difficoltà. Ci hanno messo parecchio perché ci sono le acque torbide, non lo si trovava e quindi avevano ostacolato i soccorsi. In condizioni disperate i rianimatori l'hanno portato a San Raffaele con una tecnica molto molto particolare, una specie di assistenza meccanica con circolazione extracorporea, lo hanno salvato. Ecco, questa, chiudiamo con questa buona notizia, questa prima parte di Effetto Notte, questo riepilogo. Vedo un sacco di vostri messaggi sulla questione dell'Unione Gay e del Vaticano. Pio dice: la sconfitta è del Vaticano, non dell'umanità, perché la frase di Parolin è: le unioni gay sono una sconfitta per l'umanità. Poi da Roma: prossimo Papa deve essere donna, quote rosa per i cardinali, così dice Giuliano. Roberto da Latina: il cardinale ha ragione, bastava una convivenza riconosciuta legalmente. Max: lungi dall'essere d'accordo con un prete, ma sta faccenda dei gay sta veramente diventando invasiva e snervante, manco ci fossero solo loro al mondo. Max: addirittura snervante. Gianfranco da Trento: penso che la sconfitta dell'umanità non siano affatto i matrimoni gay, ma piuttosto le guerre, la fame nel mondo, le ingiustizie umane. Questo è il 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, due canali nei quali potete continuare a interagire, mentre sentiamo gli aggiornamenti per chi viaggia. Smau ti aspetta a Bologna. 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it vi presenta. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, tra poco vi ricorderò le notizie principali. State continuando con i vostri messaggi sulla dichiarazione del segretario di Stato del Vaticano Parolin, che ha detto le unioni gay sono una sconfitta per l'umanità dopo il referendum irlandese, dopo, dicevamo, quelle che sembravano almeno prudenti aperture ieri dell'Osservatore Romano. Ce l'avevamo lasciati con chi diceva che le sconfitte sono in realtà la fame e la guerra. Poi Gianfranco, no, questo era stato un altro ascoltatore, che dice: sono d'accordo, Dio ha creato l'uomo e la donna finché si unissero in una sola carne, altrimenti li avrebbe creati tutti dello stesso sesso. Lorenzo da Ravenna: matrimoni gay, la legge a favore dei matrimoni gay rende uno stato migliore, la gente pensa che tutti i gay vogliano sposarsi, ma non è vero, la legge in discussione serve a includere tutti gli italiani sotto un ombrello di civiltà. Adesso vi ricordo le notizie principali e poi andiamo su, cominciamo con i temi. Visco, governatore di Banca Italia, dice: la ripresa è iniziata, ora bisogna consolidarla. Tra poco ne parleremo. Regionali: Renzi dichiara lunedì il PD sarà ancora il primo partito, e intanto ci sono 4 impresentabili che sbucano dalla lista della commissione antimafia. Crisi greca al tavolo del G7, Varoufakis, ministro dell'economia greco, dice: pagheremo il fondo monetario internazionale. E poi l'avete sentito, stop a Uber Pop, a questo servizio delle auto private che possono fare concorrenza ai taxi. taxi stop in tutta Italia. I giudici hanno accolto la richiesta dei tassisti. E poi il piano europeo per i migranti, che è atteso per domani. E c'è un metal detector fuori uso al tribunale di Lodi. Entra in tribunale con un coltello una donna, è stata bloccata prima di estrarre l'arma. Ritorna un po' questa questione dei tribunali poco sicuri. E poi Nozzeghella, avete sentito, il Vaticano, l'attacco, sconfitta per l'umanità, dice Parolina. Ora, prima di occuparci della politica, concentriamoci anche sulle considerazioni finali, come si definiscono, del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, oggi in occasione dell'assemblea annuale, appunto, di Banca Italia. La ripresa è avviata, sia pure contenuta, ancora da consolidare, ha detto, è messa a rischio dalla disoccupazione. Il 2014 è stato un anno di forti cambiamenti. In Europa, per l'evoluzione del contesto istituzionale e per le decisioni di politica economica e monetaria. In Italia, per l'accelerazione dello sforzo di riforma. È stato un anno di scelte impegnative, i cui primi risultati, importanti ma fragili, vanno difesi con determinazione. La ripresa avviata nel nostro Paese nel primo trimestre di quest'anno dovrebbe consolidarsi in quello in corso e nei prossimi. E poi ha detto serve più coraggio nell'innovazione e nel consolidamento delle riforme. Per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo del Paese è stata avviata un'azione di riforma riconosciuta a livello internazionale da istituzioni e mercati. Per non deludere le aspettative di cambiamento occorre allargarne lo spettro e accelerarne l'attuazione. In alcuni casi i benefici non sono immediati, ma questo è un motivo in più per agire, proseguendo un disegno organico e coerente. Saluto Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao Guido. Ciao, buonasera. Quindi, ha detto Visco, la ripresa è avviata, però in realtà è contenuta, c'è ancora il grosso problema della disoccupazione, bisogna andare avanti con le riforme e poi non bisogna abbassare la guardia sul contenimento del debito pubblico. Questo in sintesi, insomma, questa ripresa c'è, ma ancora molto timida. Sì, sì. Il governatore ha specificato che la ripresa probabilmente tenderà già a consolidarsi, a confermarsi nei prossimi trimestri, però ha anche detto che viaggia a una velocità che comunque resta inferiore a quella media europea, e da qui appunto la spinta a insistere sulle riforme, accelerarle, attuarle, quelle che sono state già messe in cantiere. E quindi è un giudizio positivo, perché ha anche rilevato, come avete fatto ascoltare voi prima, che le istituzioni internazionali e i mercati hanno appoggiato e sostenuto la riforma, i cambiamenti che ha voluto il governo Renzi, però da questa strada ancora è lontano ancora il traguardo di una ripresa vera, parliamo di una ripresa intorno all'1,5-2% del prodotto interno lordo, di aumento. Senti, invece quando dice Visco che le famiglie hanno già speso il 90% del bonus di 80 euro, come lo interpreti? In che senso? Cioè, c'è sempre nella busta paga, vuol dire che già l'hanno messo in circolo, che hanno Visco, consumato? Questa notazione non è contenuta nelle considerazioni finali, ma è nel corpo della relazione dei libroni della Banca d'Italia, tecnici, che accompagnano le considerazioni finali. E c'è su questo punto c'è appunto la notazione che la manovra degli 80 euro è entrata in qualche modo nel circolo dell'economia, e quindi questi 80 euro per la stragrande maggioranza, per il 90%, dice, sono stati spese dalle famiglie italiane. E questo si vede nei primi mesi del 2015 rispetto al 2014, dove sono diminuite le famiglie che lamentavano di non poter arrivare a fine mese, e quindi questo numero è diminuito, e quindi si presume che questa manovra sia servita anche a questo, si è aumentato il reddito disponibile. Quindi questo è il giudizio sostanzialmente alla fine in qualche modo positivo che ha dato il governatore su questa manovra. Invece Guido Gentili, andando sulle elezioni regionali, no? Questa è l'ultima settimana di campagna elettorale, quindi la sfida è proprio entrata nel vivo, oggi un sacco di dichiarazioni, lo ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che domenica 31 maggio si vota per le elezioni regionali e amministrative, quindi in diversi comuni, ma soprattutto il voto più importante, diciamo, nelle 7 regioni, no? Liguria, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Puglia e Campania. Vogliamo sentire intanto per esempio Berlusconi che cosa ha detto a proposito del voto di domenica. Qualcuno che aveva criticato D'Alema, ma che poi, smentendo quanto aveva detto, si è autocatapultato a Palazzo Chigi senza passare attraverso regolari elezioni. Se noi dovessimo riuscire a vincere in Veneto, in Campania, in Liguria e in Umbria, questo signore probabilmente, non noi, non il risultato, ma i suoi amici di sinistra all'interno del Partito Democratico, lo manderebbero a casa. Questo Berlusconi. Sentiamo invece Renzi. Io non è che metto le mani avanti, io dico che noi faremo di tutto. Sono andato, come lei ricordava, a fare campagna elettorale, penso sinceramente, se dovessi scommettere, dico che non va male. Però da qui a caricare le elezioni regionali di un significato per cui, da come vanno le elezioni alla Spezia Sarzana, dipende il futuro dell'Europa, con tutto l'affetto per la Spezia, per Sarzana, per Chiavari e per Rapallo, io credo che non sia così fondamentale, e vale per la Campania, vale per il Veneto. Si decide il futuro della singola regione. Allora, per par condicio, Guido Gentili, quindi hai sentito Berlusconi e Renzi, sentiamo anche sì. Salvini della Lega e poi Grillo, che sono proprio dei brevi passaggi. Sì. Votano 7 regioni, votano milioni e milioni di italiani da nord a sud, quindi è chiaro che votano per riconfermare Zaia in Veneto, per cambiare governo in Liguria e in Toscana, ma è un dato nazionale, contro la legge Fornero, contro una riforma della scuola che fa schifo, contro gli studi di settore, quindi è chiaro che Renzi comincia ad aver paura, comincia a indietreggiare, continua a insultare la Lega, problema suo. Noi le regionali dobbiamo vincere le regionali per poi abolire le regioni, è meraviglioso. Se non vinciamo noi non le aboliranno mai. Insomma, banco di prova per i leader nazionali, Guido Gentili, Berlusconi che è tornato un po' più alla carica, Renzi che qualcuno dice mette le mani avanti perché si pensava a questo cappotto, si dice, no, che doveva fare il Partito Democratico su 7 regioni, 7-0 rispetto al centrodestra. Sì, o 6-1. O 6-1, i vari scenari. Invece, che ne pensi della situazione? Innanzitutto, dunque, voglio dire, come sempre capita con le nostre elezioni locali, alla fine si perdono di vista, diciamo, i territori, dato, no? Il dato per cui dovremmo andare a votare, quindi appunto il territorio di riferimento di queste, in questo caso sono le regioni, che sono anche al centro di un progetto costituzionale, sappiamo, per rivederne i poteri, quindi diciamo questo dibattito però si è totalmente perso, diciamo, sul ruolo delle regioni e sul voto regionale, ed è diventato un test nazionale, come abbiamo ascoltato dai vari leader, tranne Grillo, che appunto ha fatto un riferimento al fatto che andiamo a votare, vinciamo, per poi abolirle, insomma. Ecco, ma detto questo, è chiaro che tutti, diciamo, le valutano come un test nazionale, e questo appunto, siamo passati dall'ipotesi iniziale del 7-0, poi siamo passati al 6-1, poi siamo alla vittoria del 4-3 per il PD. Ora Berlusconi immagina anche magari di ribaltare totalmente, a me pare oggettivamente difficile questo risultato, però è chiaro che a questo punto questo appuntamento ha assunto una valenza squisitamente nazionale. Quindi su questo dobbiamo ragionare, e su questo poi leggeremo poi i risultati del lunedì, insomma, ecco. Con molta ansia, caro Guido Gentili, e ti ringrazio, e poi ci saranno, naturalmente ne parleremo dopo questa pausa, anche questi nomi che cominciano a uscire dalla commissione antimafia, i cosiddetti impresentabili, che anche quello, insomma, è un bel problema. Grazie Guido Gentili. Grazie a voi, buonasera. Ciao, buona serata. Ancora qualche vostro messaggio, Manuele da Genova, tra la pagina Facebook di Effetto Notte, dicevo, è il 349-238-6666. Manuele scrive: meglio avere una coppia gay oppure un prete pedofilo? I diritti delle persone persone devono essere rispettate indipendentemente dal sesso, colore della pelle, eccetera. Poi ringrazio Antonio da Catanzaro, non so dargli una risposta. E qualcun altro, vediamo cosa scrive. I preti pedofili sono il male dell'umanità. Carlo Galassi da Frosinone, a proposito, risponde appunto alla frase che vi dicevo del segretario di Stato Vaticano Parolin, che dice le nozze gay sono un danno per l'umanità. Anche Erika dice, anche crede, anzi una sconfitta per l'umanità. Erika, anche credere in un supereroe che cammina sulle acque nel 2015 è una sconfitta per l'umanità, così dice Erika. Maurizio, è la parola matrimonio che dà fastidio, meglio contratto di convivenza. E poi, in uno Stato che si dichiara laico non si può permettere a qualsivoglia religione di ostacolare un'inevitabile evoluzione democratica della società. La Chiesa detta i propri principi, non le leggi. Bene, continuate con le vostre riflessioni, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia gli sms al 349-238-6666. L'input che vi ho lanciato questa sera è la notizia poi che è prima su tutti i siti, il segretario di Stato Vaticano Parolin, che dopo che ieri l'Osservatore Romano aveva preso atto del referendum sui matrimoni gay, che è stato un voto favorevole in Irlanda, oggi c'è questa posizione così drastica. Noi ci prendiamo questa pausa di ricreazione e poi parliamo degli impresentabili della Commissione Antimafia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre con voi Roberta Giordano. Continuano ad arrivare i vostri messaggi sulle parole del segretario di Stato Parolin. Cosa ne pensate quando dice che le unioni gay sono una sconfitta per l'umanità? È un argomento molto centrato e centrale, non so come lo volete definire, in questi giorni, perché c'è stato il referendum in Irlanda sui matrimoni gay che ha detto sì ai matrimoni. Poi l'Osservatore Romano ieri e vari cardinali anche in giro per il mondo, anche quello vescovo irlandese, hanno detto raccogliamo questa sfida, è un cambiamento culturale. Poi oggi c'è stata questa dichiarazione. Proprio ieri Renzi aveva assicurato che entro l'estate, insomma, la legge sulle unioni civili in Italia dovrebbe essere presentata alle Camere. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche attraverso i messaggi 349-238-6666. Io adesso vi ricordo, come sempre dopo le pause, le notizie principali, visto che non tutti accendono puntualmente alle 21, e poi passiamo al prossimo tema, che è quello della Commissione Antimafia. Crisi, la ripresa c'è ma va consolidata, dice il governatore di Banca Italia Visco, che chiede di accelerare con le riforme. Elezioni regionali, mentre la sfida entra nel vivo, slitta la lista degli impresentabili stilata dalla Commissione parlamentare antimafia, ma ci sono già 4 nomi. Effetto Grecia, mercati ancora deboli, ma il ministro delle finanze Varoufakis assicura pagheremo la rata del Fondo Monetario Internazionale il 5 giugno. Criminalità, arrestato in Brasile un camorrista latitante da oltre 30 anni. Poi stop ad Uber Pop in tutta Italia, secondo i giudici è concorrenza sleale, esultano i tassisti, la compagnia commenta, non capiamo, faremo appello. Unioni gay, dopo le prudenti aperture di ieri sul tema da parte dell'Osservatore Romano a seguito del referendum in Irlanda, oggi il segretario dello Stato della Santa Sede, Parolin, dice sono una sconfitta per l'umanità. Dunque, soffermiamoci su questa lista che la Commissione Antimafia, presieduta da Rosy Bindi, Commissione parlamentare, si dovrebbe apprestare a pubblicare. Doveva pubblicarla oggi i nomi dei cosiddetti impresentabili, cioè di candidati nelle liste, nelle varie regioni, nelle 7 regioni, che sono considerati, diciamo, le loro presenze sono considerate inopportune o perché condannati o perché invischiati in vicende opache, troppo chiacchierati, oppure insomma presenze inopportune per una serie di motivi. Allora, doveva essere pubblicata, poi c'è stato questo slittamento improvvisamente a venerdì, ma al momento in realtà ci sarebbero quattro nomi di candidati. Sono Giovanni Copertino di Forza Italia per la circoscrizione di Bari, Fabio Ladisa, Popolari per Emiliano, della circoscrizione di Bari, quindi tutti in Puglia per il momento, Massimiliano Giano per Fitto con il candidato Schittulli, Enzo Palmisano del Movimento Politico per Schittulli, Area Popolare, circoscrizione Brindisi. Ne parliamo con Francesco Duva del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione parlamentare antimafia. Buonasera Duva. Buonasera a tutti. Avevo chiesto anche la disponibilità del presidente Bindi e del vicepresidente Claudio Fava, ma hanno declinato l'invito. Come è andata questa riunione oggi dell'ufficio di presidenza? Beh, non è andato bene, non è andato bene perché io mi aspettavo fosse quasi una formalità, tutti si aspettavano fosse quasi una formalità perché credevamo fosse tutto pronto. In realtà mancavano ancora dei nomi, mancavano da analizzare dei nomi della campagna. Questo ha comportato discussioni all'interno dell'ufficio di presidenza, perché c'era chi, come me, ha chiesto che venissero pubblicati i nomi che già erano a disposizione della commissione, e chi invece diceva di rinviare tutto a venerdì. Si è arrivata a questa soluzione di cominciare a pubblicare le regioni, che di fatto c'è solo la Puglia, diverse dalla campagna, e rinviare la campagna a venerdì. Questa soluzione noi come Movimento 5 Stelle non l'abbiamo accettata, quindi abbiamo dato comunicati stampa per dire questo, perché cosa succede venerdì? Sabato c'è silenzio elettorale, significa che non si potrà nemmeno parlare dei nomi che ci saranno, quindi noi avevamo detto, visto che i nomi della commissione della campagna sono soltanto suddivisi per territorio, possiamo cominciare a fare questi qui che sono della provincia di Napoli, poi le altre province arriveranno per tutti. Comunque la par condicio è rispettata. Questo è quanto al momento. Vedo una dichiarazione, di un senatore di SEL, che si chiama sempre anche lui componente dell'antimafia, Peppe De Cristofaro, che dice: quattro sono pugliesi, quelli di cui abbiamo fatto i nomi, il resto probabilmente sono tutti campani, dal momento che in altre regioni non ci sono impresentabili. Sì, è corretto. Dice sarebbe gravissimo se non vengono fuori entro venerdì questi nomi. Ma per me è già chiaro che non siano venuti fuori quelli che già erano quelli di cui già si ha conoscenza oggi. Cioè, per me è già grave, perché ripeto, venerdì non se ne potrà discutere, l'opinione pubblica quasi non potrà vederli questi nomi di impresentabili. Quindi questo è grave. Tra l'altro, impresentabili, io voglio spiegare un attimo, se mi posso permettere, che alla fine sono impresentabili secondo il codice di autoregolamentazione della Commissione Antimafia, che abbiamo votato all'unanimità a settembre 2014. Comunque, quindi ecco, verso... ci spieghi i criteri Duva, quindi, per l'impresentabilità. Ma i criteri sono di fatto la legge Severino più altri reati cosiddetti spia, ovvero che sono estorsione, racket, traffico di stupefacenti, traffico di armi, questi qui, diciamo, insomma, a grandi linee. Quindi non si parla, soltanto se c'è stato almeno un rinvio a giudizio. La difficoltà è nel controllare tutto e vedere se dopo il rinvio a giudizio c'è stato qualcos'altro, un'archiviazione, un'assoluzione, via così. Quindi per questo gli uffici della Commissione Antimafia sono stati molto, ma molto attenti a fare in modo di non spiattellare sui giornali nomi di persone che magari potevano benissimo non centrarci nulla. Però questo criterio non va a guardare quegli incensurati che potrebbero essere parenti o prestanome di determinate persone, di boss della mafia ad esempio. Quindi bisogna considerare questo: il fatto che nelle altre regioni non ci siano nomi dati dalla Commissione Antimafia non significa che sono tutte persone al 100% pulite. Bisogna sempre stare attenti e considerare questo. Infatti noi rinfacciamo, per modo di dire, diciamo, perché abbiamo cercato anche noi di dare un contributo a questo lavoro, il fatto che è stato fatto tutto di fretta. Queste cose devono essere fatte sicuramente prima, che entrare in scivolata su questo argomento degli impresentabili facendo un lavoro troppo complicato, troppo difficile in 5 giorni, e questo è il risultato. Questa slitta da venerdì non si arriverà a nulla. Certo, le cose sono due, come diceva lei, Francesco Duva. Da una parte, svegliarsi proprio a 4-5 giorni dalle elezioni, quando si poteva fare molto prima, mi sembra a me personalmente piuttosto assurdo, no? O lo si fa prima o non lo si fa. Tra l'altro qui non c'è neanche la par condicio di quell'interno tra gli impresentabili, perché dei nomi sono stati fatti, gli altri sono pubblici, li ho detti, quelli che sono anche sui e qui c'è stata una siti. Fuga di notizie che ha anche un po' indispettito gli umori dell'ufficio di presidenza, un rinfacciarsi chi anche a vicenda. Chi le ha fatte fuggire queste notizie? Non si sa, qualcuno adesso forse pure noi 5 Stelle, che è una cosa folle, perché onestamente non abbiamo nessuna, non vediamo che vantaggio ci debba essere, ma c'è un rinfacciamento di colpe vicendevole, non si sa purtroppo. Però la cosa certa è che fa gioco a chi ha questi nomi di impresentabili, perché chi ha i nomi di impresentabili, e non possiamo essere noi 5 Stelle, perché ricordo che noi ogni volta prima di candidarci dobbiamo presentare casellario giudiziale e carichi pendenti, altrimenti Grillo non dà la certificazione, quindi noi non possiamo essere. È chiaro che questa fuga di notizie ha fatto gioco a chi adesso abbiamo mandato tutto quanto a venerdì e si parla, si colpevolizza la commissione antimafia e la fuga di notizie. Quindi io credo faccia gioco più al centro-destra e al centro-sinistra. Ecco. Aspettiamo comunque venerdì e vediamo se davvero questi nomi vengono fuori prima che le elettrici e gli elettori vadano alle urne. Speriamo venerdì mattina, visto che sabato c'è silenzio elettorale, appunto. Così almeno ne possiamo parlare il venerdì pomeriggio. E poi ognuno può valutare. Grazie onorevole Francesco Duva. Grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie. Allora, aggiorniamo chi sta viaggiando, poi voi continuate con le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Parleremo anche tra poco di divorzio breve e di quali risparmi ci possono essere. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccole in pochi secondi, di nuovo con il governatore della Banca d'Italia, Visco, oggi all'Assemblea annuale, che ha detto la ripresa è iniziata, bisogna consolidarla con le riforme. E poi le regionali, abbiamo appena sentito della vicenda della lista dei impresentabili che dovrebbe pubblicare la Commissione Antimafia, ma è slittata a venerdì. Renzi dice lunedì il PD sarà ancora il primo partito, e poi Berlusconi che dice lo manderemo a casa. La crisi greca al tavolo del G7, Varoufakis, ministro dell'economia greca, dice pagheremo il Fondo Monetario Internazionale. Stop in tutta Italia Uber Pop, così hanno deciso i giudici, è concorrenza sleale. E poi il piano europeo per i migranti che è atteso per domani, e le nozze gay, l'avete sentita la notizia, l'input che vi ho lanciato questa sera, il Vaticano all'attacco dice una sconfitta per l'umanità, così dice il segretario di Stato Parolin. E poi tornano in Italia degli affreschi di Pompei, li hanno recuperati i carabinieri, erano in Stati Uniti, opere rubate pronte per l'asta. Europa 24 notte. Parliamo di pesca in Europa. Da oggi scatta ufficialmente nell'Unione Europea la campagna di pesca per il tonno rosso nel Mediterraneo e nell'Atlantico da parte delle grandi navi, le cosiddette tonnare. La campagna si concluderà il 24 gennaio. I pescatori dell'Unione Europea, dopo anni di restrizioni, potranno beneficiare di un aumento del 20% della quota complessiva di tonno rosso, quota che aumenta anche per l'Italia. Per altre specie invece l'Europa punta sull'acquacultura proprio per ridurre l'impatto sui mari. In vista in visita all'Expo di Milano, il commissario europeo per l'ambiente e affari marittimi e pesca Vella ha presentato l'azione dell'Unione Europea a sostegno dell'acquacultura per soddisfare le richieste della popolazione mondiale che è in continuo aumento e lanciare quindi in questo ambito l'industria del settore europea. Sentiamolo al microfono di Laura Bettini. At the moment the European Union is importing some 65%. L'Unione Europea importa oggi circa il 65% della domanda di prodotti ittici e questa percentuale sta aumentando. La nostra politica comune assicura la sostenibilità della pesca nei nostri mari, ma se l'affiancassimo all'acquacultura potremmo allentare la tensione sulla pesca e ridurre le importazioni. Al momento l'UE produce solo circa il 5% dei prodotti da acquacultura. È un settore alquanto giovane, che ha circa una trentina d'anni. Per questo cerchiamo di sostenerlo e di appoggiarne la crescita. Sono state lanciate delle campagne per educare i consumatori alla fruizione dei prodotti da acquacultura e a dire che si tratta di prodotti di alto livello e di un'industria sostenibile. I consumi stanno crescendo da 10 kg pro capite degli anni 60 a 20 kg del 2012. Sono stati stanziati dei fondi attraverso l'MFF, Fondo per la Pesca e le Attività Ittiche, che dovrebbero aiutare a promuovere lo sviluppo dell'acquacultura. Nel frattempo abbiamo chiesto ai Paesi membri di adoperarsi per ridurre quanto più possibile gli ostacoli amministrativi e burocratici che si frappongono allo sviluppo dell'acquacultura. Come potrà l'Unione Europea, partendo da così indietro, diventare leader in questo mercato? I think when we talk about the EU, we are talking about the cumulative effort of every member state. Quando ho parlato di Unione Europea, mi riferivo allo sforzo cumulativo di tutti i Paesi membri. Dobbiamo spingere per la crescita e il sostegno di questo settore nei Paesi membri. In questo momento, come ho già detto, l'ostacolo principale è la burocrazia. Non è facile ottenere permessi per questi allevamenti, come non è facile trovare lo spazio fisico per farli. Se ad esempio ci sono degli hotel, non si può fare. Se l'area è destinata alla balneazione, non si può fare. Detto questo, da parte nostra siamo disposti ad aiutare anche con azioni di promozione e marketing per la vendita dei prodotti di acquacoltura, perché vogliamo che il settore cresca non solo per ridurre le importazioni, ma perché pensiamo di poter diventare esportatori di prodotti ittici di acquacoltura. Questo è un settore che si basa su ricerca e innovazione, due ambiti in cui l'Europa è leader nel mondo. E ci sarà attenzione a preservare la biodiversità del continente? That is very important. In fact, one of the main conditions that the European Union. Questo è molto importante. L'Unione Europea concede finanziamenti per l'acquacoltura se vengono soddisfatti alcuni criteri, e uno di questi è la piena sostenibilità del progetto. Non possiamo sostenere l'acquacoltura a discapito della biodiversità, però l'acquacoltura può perfino aiutarci a proteggere la biodiversità. Una domanda molto forte provoca una pesca eccessiva che l'acquacoltura può contribuire a ridurre. And aquaculture can relieve that demand. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ora occupiamoci del divorzio breve che da oggi entra in vigore anche in Italia. Si tratta della rivoluzione attesa da tempo che ha ridotto fino a 6 mesi in caso consensuale, se no a 1 anno, il tempo che passa tra la separazione e il divorzio. Finora 3 anni dovevano passare dalla separazione per ottenere il divorzio. Adesso se si passa per via giudiziale 1 anno, altrimenti sono 6 mesi. Ne parliamo con il presidente di Altro Consumo, Paolo Martinello. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, i tribunali hanno espresso intanto un po' di timore per rischio ingorgo, insomma, delle cause civili, però al di là di questo tema, Martinello, c'è anche quello del non solo risparmio di tempo, ma anche risparmio di soldi. Avete fatto un conto di quanto le coppie che comunque hanno deciso, insomma, di lasciarsi possano risparmiare col divorzio breve? Non bisogna pensare solo al divorzio breve che sta entrando in vigore in questi giorni, ma anche alle riforme che erano state fatte l'anno scorso al processo civile, che avevano toccato anche il tema delle separazioni e del divorzio, prevedendo in particolare la possibilità di divorziare direttamente in comune, oltre che la possibilità di divorziare davanti all'avvocato. Oggi praticamente separarsi e divorziare lo si può fare seguendo 3 strade, a differenza di una che c'era prima. La prima strada resta quella che c'era davanti al tribunale, assistiti da un avvocato. Parlo naturalmente di separazione e divorzi consensuali, sì. Per i contenziosi è un altro scenario. Per i consensuali oggi c'è la possibilità di andare davanti al tribunale da soli o assistiti da un avvocato, se si preferisce, davanti a 2 avvocati che stipulano l'accordo, uno per una parte e uno per l'altra, e poi lo porteranno in tribunale. La terza strada è andare senza avvocato davanti al comune. Questo lo si può fare solo se non ci sono figli minori e se non ci sono beni da dividersi. Sono 3 strade alternative una all'altra che consentono, a mio parere, anche dovranno consentire anche una consistente riduzione di costi. In particolare la strada davanti al comune, al sindaco, all'anagrafe, è una strada che è pressoché gratuita, quindi i coniugi che vogliono divorziare o separarsi consensualmente, non hanno figli e regolano direttamente, privatamente la divisione dei loro beni, che possono essere dall'auto al conto corrente eccetera, praticamente lo fanno in modo gratuito e anche relativamente veloce. In più adesso si somma il divorzio breve, che riduce il lasso di tempo tra la separazione e il divorzio, quindi praticamente oggi si può prevedere che 2 coniugi senza figli possono divorziare, separarsi prima e divorziare poi nell'arco di meno di 1 anno, 7-8 mesi circa. Le altre strade sono un po' più costose, in particolare direi quella della negoziazione assistita, che secondo me non avrà, credo, grande successo, perché se 2 coniugi sono già sostanzialmente d'accordo, tanto vale che vadano da un unico legale o addirittura senza legale, se hanno figli, direttamente in tribunale, e quindi anche in quel caso i costi dovrebbero essere abbastanza contenuti. Noi il consiglio che diamo è sempre quello di eventualmente chiedere a diversi studi legali se ci si vuole valere dell'assistenza l'assistenza di un professionista e confrontare le tariffe. Oggi ci sono studi, reti di giovani legali che danno assistenza alle coppie che vogliono divorziare o separarsi consensualmente a prezzi che possono oscillare intorno ai 1000 euro. Grazie Paolo Martinello di Altro Consumo. Grazie, buona serata. Noi ci sentiamo tra poco.